No. 9 in punto. La politica nel tunnel. Buongiorno cari ascoltatori e care ascoltatrici da Simone Spezia. Benvenuti a 9 in punto. Questa mattina per un problema tecnico ci è sfuggito il nostro consueto ascoltatore da Bergamo, con il quale apriamo le nostre come con il quale apriamo solitamente la nostra trasmissione. E però, appunto, la politica è ancora nel tunnel. Politica nel tunnel, ve lo abbiamo raccontato anche nei nostri giornali radio, lo avete sentito, insomma, puntata quasi interamente dedicata, quella del nostro Alessandro Milan, alle 8:15. Al momento tutto bloccato, nel senso che Pierluigi Bersani sta facendo il suo giro di incontri, ci sono delle tensioni abbastanza forti all'interno del Partito Democratico, tensioni abbastanza forti a causa di un'intervista di Graziano Del Rio, insomma, nella quale sostanzialmente sostiene abbastanza nitidamente l'ipotesi di un governo di scopo breve nel caso che Bersani debba fallire il suo tentativo, tensioni naturalmente soprattutto verso con la parte, l'ala sinistra del partito, perché Del Rio, come sappiamo, l'abbiamo anche ospitato ai microfoni di Radio 24, è un renziano. Vediamo che cosa succederà. Io mi limito a far notare, ancora una volta e anche oggi, che continuo a non vedere una presa di posizione seria, ad alto livello, ben centrata e ben ragionata sulla vicenda di Cipro, che continuo a ritenere stasera, ieri sera, come sapete, nella notte, come anche i giornali radio vi hanno raccontato, si è finalmente raggiunto un accordo. Per il momento i mercati sembrano valutarlo abbastanza positivamente. Certo che, scusate l'espressione, i leader europei sono riusciti a fare veramente un discreto casino. Dall'Italia non vedo note e riflessioni su tutto questo. Oggi però il tema del quale parliamo è l'alluvione che ha colpito l'11 novembre scorso la Toscana. Ed è un momento anche per aprire una riflessione su quanto nelle pastoie burocratiche si vadano a bloccare i soldi che generalmente vengono promessi dai vari governi. Ieri il Presidente del Consiglio Mario Monti ha firmato il decreto per assegnare questo denaro e però, insomma, bisognerà vedere quanto ci metterà ad arrivare, perché abbiamo sott'occhio e sotto mano, e poi torneremo anche su questo, l'esempio dell'Emilia-Romagna, tanti soldi promessi, tanti soldi stanziati, e poi alla fine le aziende che sono riuscite effettivamente ad accedere agli aiuti, ai fondi stanziati, sono state finora pochissime, proprio perché le procedure sono veramente complesse. Iniziamo però appunto dalla Toscana. Oggi in piazza, o meglio in strada, lungo la via Aurelia, c'è una manifestazione. Si trova là la nostra Laura Bettini. Iniziamo dunque da lei, dalla cronaca. Laura, innanzitutto, dove ti trovi? Cosa sta succedendo? Dunque, io mi trovo in viaggio, come per l'appunto tu hai anticipato. In pratica mi sto muovendo da una località che si chiama Marsigliana, che è stato il punto di ritrovo per questa manifestazione, verso Albinia, dove poi ci sono stati danni gravissimi, di cui parlammo ai tempi nei nostri giornali radio, danni gravissimi e per i quali appunto per ora non è arrivato alcun contributo per la ricostruzione, la ripresa delle attività nelle imprese, nei campi che sono tuttora devastati, ve lo posso assicurare, uno scenario da pianura padana, però in pianura padana dove si coltiva il riso, ecco, invece qui siamo nella Maremma dove le coltivazioni sono di tutt'altro genere e i campi sono completamente allagati quattro mesi dopo è stato anche un inverno inclemente e quindi non sono riusciti ad assorbire insomma questo eccesso d'acqua, però questo significa che nei prossimi mesi chi lavora con la terra avrà veramente giorni e mesi difficili. La manifestazione appunto si muove da Marsigliana verso Albinia, poi passerà attraverso appunto anche l'Aurelia, qui siamo per ora nell'interno e sull'Aurelia con un corteo pacifico, devo dire manifestanti molto molto ordinati, molto tranquilli, però determinati, perché la loro situazione è effettivamente molto difficile. La firma del decreto che tu ricordavi è solo l'inizio di un procedimento, nei prossimi mesi poi bisognerà pensare alla ripartizione dei fondi, bisognerà che arrivino materialmente, noi ne abbiamo parlato molto per l'Emilia, so che tu hai anche ospiti che potranno precisare meglio qual è la situazione attuale, però insomma soldi veri ne sono arrivati in realtà veramente pochissimi. Ecco, ci siamo sentiti prima della trasmissione, Laura, mi dicevi, e già lo accennavi appunto in questo primo collegamento, e qua sembrano risaie, cioè non sembra nemmeno più il paesaggio della Maremma per come sono ridotti i campi. No, infatti sembra proprio tutt'altro che la Maremma, qui c'è una possibilità piccola di guadagno per i contadini se la situazione, cioè se il tempo migliorerà nei prossimi giorni e quindi si potrà avere qualche coltura di quelle che crescono rapidamente, che per l'estate sono pronte, mi hanno parlato dei girasoli, spero di non prendere bucce di banana perché non sono certo un esperto in tema di coltivazioni, però insomma tutto quello che è la produzione tradizionale di questi luoghi per quest'anno è persa, bisognerà aspettare l'anno prossimo e come si vive in questi mesi è una domanda grossa ed è una domanda che al momento non ha una risposta. Innanzitutto permettetemi una precisazione, vi abbiamo annunciato nell'anteprima che ci sarebbe stato il presidente della regione toscana Enrico Rossi, che invece è svanito nel nulla, aveva un aereo da prendere, ha detto, insomma, ci aveva assicurato la presenza fino alle 9:30, ha preso l'aereo prima, insomma lo abbiamo saputo praticamente adesso in onda, insomma ve lo segnalo, insomma, visto che l'avevamo annunciato. Giuseppe Rustici, presidente del comitato Vita, che è all'interno di questo corteo che Laura Bettini ci sta raccontando. Buongiorno. Buongiorno. Cosa succede dunque? Che cosa chiedete? Che cosa volete? Alla fine Monti ieri il decreto l'ha firmato, no? Sì, il decreto di Monti è stato firmato, ma se facciamo benissimo un calcolo aritmetico, le risorse stanziate, si parla solo di aziende extraagricole e privati cittadini, saranno poche elemosina divise per tutti, appunto, di tutti i cittadini danneggiati, forse copriranno il 5-6, forse l'8% del danno subito, e poi parliamo di un danno a seguito di una ricostruzione, e quindi questa è la situazione. Cosa intende per un danno a seguito di una ricostruzione? Perché qualora io ho subito un danno riceverò un compenso esclusivamente se ricostruirò. E quindi se ho una copertura di un 8% mi dovrò assumere un onere finanziario e un esborso del 92%. Questa è la situazione. Allora, che cosa succede adesso? Nell'attesa di questi fondi c'è già gente, immagino, che si è rimessa a lavorare, magari ha contratto nuovi mutui, ha cercato liquidità da altre parti. Ci racconta un po'? Sì, certamente. Allora, come si sono strutturati? Allora, c'è chi ha preso i risparmi, tra virgolette, di una vita, quindi aveva degli accantonamenti e ha utilizzato quelli. Gli aiuti dai familiari, chi ha utilizzato finanziamenti messi in campo dai crediti cooperativi, che sono stati quelli che sono stati molto più vicini all'azienda, essendo banche del territorio. E quindi ecco, con finanziamenti privati e con un piccolo sussidio di una banca, sono le uniche risorse economiche che hanno aiutato le imprese danneggiate e anche i privati cittadini. Questa è la soluzione adottata ad oggi. Questo è il punto della situazione. Adesso torneremo da lei. Intanto io voglio salutare anche Giovanni Messori, che è direttore di Confindustria Modena. Buongiorno. Buongiorno a lei. Perché, come promesso, ci spostiamo anche sull'Emilia. Abbiamo detto, Mario Monti ha firmato il decreto per la Toscana e non solo. Dentro, adesso ritroverò, avevo qua sotto il comunicato di Palazzo Chigi, lo ritroverò. Insomma, ci sono stanziamenti naturalmente non solo per la Toscana, ma anche per l'Umbria, il Veneto, la Liguria, le Marche, il Lazio, insomma tutti quelli che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2012. I soldi sono là, ma non è detto che siano sbloccati, Messora. Voi ne sapete qualcosa da questo punto di vista? Ne sappiamo qualcosa. Guardi, le imprese che hanno potuto presentare le domande al commissario straordinario sono solo poche decine. I soldi disponibili sono oltre 6 miliardi e lo Stato ha stabilito che il rimborso sia al 100%. Perché succede questo? Perché oggettivamente le cose sono di una complessità senza precedenti, ogni azienda ha i suoi problemi specifici e quant'altro. Però dopo 3 mesi non esisteva una normativa sulla ricostruzione, quindi la Regione ha dovuto riscrivere ex novo tutte le regole. Però dopo 3 mesi in cui si potevano presentare le domande, il fatto che solo poche decine lo abbiano fatto senza polemiche rende esplicito che tutti dobbiamo fare qualcosa in più, semplificare, vedere come si può oliare meglio questa macchina, perché le grandi imprese, e grande sempre relativo, più dotate da un punto di vista patrimoniale, hanno addirittura già compiuto la ricostruzione, siamo andati a tante inaugurazioni. Quelle più piccole, anche in un momento di credit crunch così forte, hanno ancora invece l'impossibilità di partire se non hanno i soldi della Regione e dello Stato. Lei diceva poche decine, mi pare che i numeri che circolavano nei giorni scorsi parlavano di 37 imprese. Guardi, su 10.000 colpite. Se 37 fossero il doppio, saremmo lontano dalle migliaia di aziende che sono in lista per ricevere i contributi, quindi non è che 10 in più o 10 in meno cambi la sostanza delle cose. Direi di no, anche perché sono 10.000 circa quelle colpite, mi sembra. Sono 10.000 circa quelle colpite. Lei si è fatto un'idea, insomma, lavorando adesso sul fronte del terremoto, su un discorso un po' più generale, no? Su come si possono snellire queste procedure? Perché io, appunto, dicevo, Monti ha varato questi 110 milioni di euro. Adesso il paese è fatto come è fatto e quindi non dubito che questi soldi rimarranno intruppati da qualche parte, cioè bloccati in qualche luogo, appunto da pastoie burocratiche, l'attesa dell'attuazione, l'attesa della circolare dell'Agenzia delle Entrate. Tra l'altro, quella che riguarda il terremoto, se non ho capito male, se non ricordo male, ha fatto più danni che altro dal punto di vista della complicazione. Guardi, voglio dire, la fase dell'emergenza, la costruzione delle scuole, tutte queste cose qui sono andate via velocemente, senza troppi intoppi, le scuole hanno riaperto nel mese di settembre, quindi voglio dire, c'è la volontà anche del commissario straordinario. Poi subentrano tutta una serie di problemi che nascono nel momento in cui, da un certo punto di vista anche giustamente, soldi pubblici vanno ai privati. Bisogna poter dimostrare i danni avuti, come si fa la ricostruzione, se la si fa con le normative sismiche richieste dopo questi eventi, qual è la situazione geologica dei terreni. Spesso i professionisti, come posso dire, sono preparati per l'ordinaria amministrazione, ci sono delle cose straordinarie. La stessa Regione deve rapportarsi agli organi di controllo dello Stato, alla Corte dei Conti. Cioè, voglio dire, è difficile anche trovare delle singole responsabilità. Io credo che tutti gli organi dello Stato, la Regione e gli stessi imprenditori, le stesse associazioni debbano fare uno sforzo ulteriore per snellire quanto più possibile. Insisto, questa crisi dovuta al terremoto si inserisce oltretutto in un momento economico in cui il presidente Squinzi solo ieri dice a Bersani siamo alla fine. Quindi non è un momento normale in cui per esempio il sistema bancario avrebbe potuto supportare di più anche queste attese. Siamo in un momento straordinario e quindi qualcosa dovremmo mollare agli accertamenti, diciamo così, per farli a posteriori, sapendo poi che chi sbaglia paga. Allora, qualche sms, poi vi ricordo il numero per intervenire in diretta è 800 24 00 24, l'hashtag su Twitter è 9 in punto. Ci chiedete se abbiamo notizie sui fondi che sarebbero dovuti arrivare a Levante Ligure per i danni dell'alluvione alle Cinque Terre e altre zone. Io vedo qua nel decreto dei Monti uno stanziamento per la Liguria, non so se sia quello, ma penso che se si riferisce a quella famosa alluvione delle Cinque Terre i soldi siano già stati stanziati. Non so effettivamente quanti ne siano arrivati, su questo appunto cercheremo di informarci e cercheremo di capire. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo nella giornata che Radio 24, ve lo ricordo ancora una volta, dedica all'alluvione in Toscana, alluvione dell'11 novembre del 2012. Alluvione per la quale ieri è stata firmata il decreto che assegna, è stato firmato il decreto che assegna i fondi, e però insomma da vedere quando questi fondi arriveranno. Di nuovo la nostra inviata Laura Bettini alla manifestazione che si sta svolgendo sulla Via Aurelia per capire questo. Laura, allora, tutto è molto concentrato in questo momento sulla Maremma, la protesta si svolge sull'Aurelia e così via, ma insomma c'è il rischio, si segnala un po' il rischio che ci siano altre parti colpite dall'alluvione che vengano dimenticate, mi riferisco alla Lunigiana in particolare. Beh, allora io ci tengo a sottolineare che noi siamo qui anche, diciamo, a titolo esemplificativo, Simone, la tua trasmissione è proprio questo, vuole essere, nel senso c'è l'occasione che è questa manifestazione in Maremma per un problema reale e grave che c'è stato qui in Maremma, ma per esempio i fondi di cui abbiamo parlato prima sono destinati tanto alla Maremma quanto alla zona di Massa, quindi l'area a cui tu ti riferisci, e quindi diciamo Non vogliamo assolutamente dimenticare nessuno, non vogliamo trascurare nessuno, ma anzi in questo modo riportare l'attenzione su una serie di problemi veri che ci sono in giro per l'Italia. Ricordiamo anche il terremoto del Pollino, per dire, ne abbiamo parlato tanto in quei giorni, poi è scomparso, ma là comunque ci sono stati dei danni, ci sono cittadini che soffrono situazioni di disagio. È un modo con il quale vogliamo fare riportare l'attenzione su tutte queste situazioni. Il momento è questo della manifestazione in Maremma, ma purtroppo la situazione è diffusa sul territorio nazionale per una serie di problematiche diverse, ma spesso legate. Il terremoto è imprevedibile, per carità, qui non possiamo fare niente, possiamo solo seguire gli eventi, alcuni degli eventi invece li possiamo prevenire, e quindi con più attenzione sul territorio, con più interventi. Non a caso qui molti dei manifestanti espongono dei cartelli che non chiedono solo denaro per ricostruire qualcosa, ma chiedono investimenti per riportare il territorio in sicurezza, cosa che non era stata fatta prima, evidentemente. Naturalmente. E Sandro ci chiama da Ferrara, buongiorno. Sì, buongiorno e complimenti. Una brevissima considerazione. Io sono un imprenditore, ho da 30 anni di dipendente nella zona dell'Emilia, e le dico solo questo: sono stato colpito in parte anche dal terremoto, che è la mia zona di Ferrara. Il problema è assolutamente la burocrazia, spaccano le varie fasi, dalla regione alla provincia, al comune, alla circoscrizione, tutti i documenti in aggiunta che le posso garantire, tre consulenti e due associazioni di categoria non sono riuscite a risolvere il problema. Noi ci siamo salvati, io personalmente, con un'assicurazione privata, però le posso garantire che avere certificati costa un sacco di soldi ed entrare in questa macchina burocratica è deleterio. Questo paese è allo sfascio sotto questo aspetto. Non c'è chiarezza tra un ufficio e un altro ufficio. La provincia non parla con la regione, un distretto comunale non parla con il comune. Ogni persona che tu incontri, che parli, ha una versione diversa di quello che è il documento che ti serve. E questo è il problema di questo paese. Non è il problema l'erogazione dei fondi, è impossibile accederli, perché è assolutamente deleterio. Io sfido qualsiasi persona, suo ospite, o qualche consulente del lavoro, o qualche commercialista, che ci abbia capito qualcosa. Perché ogni giorno arrivano circolari diverse, ogni giorno arrivano... Che poi Sandro, la interrompo, anche da imprenditore, alla fine il problema generale di questo paese, cioè non riguarda solo l'erogazione dei fondi, insomma, il tema è quello. Assolutamente, certo, ma guarda che uno non chiede l'elemosina allo Stato, uno chiede assolutamente solamente il suo. Cioè quando noi siamo colpiti così profondamente, cioè abbiamo bisogno anche di una garanzia, abbiamo bisogno anche che qualcuno si metta in... contrapposizione con noi, che ci parli. Il problema è che tu parli con 50 persone, queste 50 le posso assicurare, nessuno ha la stessa idea di quello, dello stesso documento che sta leggendo. Sono tutte leggi che vengono interpretate in maniera diversa da una persona all'altra, non c'è mai chiarezza, perché basta una virgola, bastano due punti, basta una postilla, un articolo che viene tutto bloccato. E poi ci si mette anche dopo, assolutamente, la crisi economica che è assolutamente inaspettata, oppure sapevamo che entravamo in recessione, ma non fino a questo punto, e noi a questo punto ci vediamo abbandonati e diciamo, vabbè, adesso proviamo ad andarci con le nostre mani, ci facciamo sulle maniche, ci facciamo 15-16 ore di lavoro al giorno, va bene così. Però lei capisce che è difficilissimo così continuare, perché quando uno non ha certezza con chi si deve rapportare, diventa veramente difficile, è difficilissimo, ve lo posso garantire, è una battaglia. Io credo che le nostre categorie... Non voglio dire che sono degli eroi, perché è una parola assolutamente forse fuori luogo in questo momento, però posso dirle che tenere duro in questo momento in questo paese è veramente difficile, soprattutto per i piccoli e i piccolissimi. Grazie, buona giornata. Grazie Sandro. Ci scrive Luca Duri su Twitter, devono fare un unico 8 per 1000 per sistemare i danni causati da eventi naturali, ma vede Luca, il problema che stiamo ponendo non è quello, non è... i fondi che arrivino o non arrivino, il problema è come poi vengono erogati, i meccanismi tramite i quali vengono erogati, perché il problema è esattamente quello, che poi come in parte ci diceva l'ascoltatore un attimo fa, è una questione più generale che riguarda il paese, perché chiunque si sia trovato impastoiato in questioni burocratiche, questo riguarda particolarmente gli imprenditori, ma in realtà riguarda tutti noi, sa benissimo che questo schema per cui il funzionario di un ente locale ti dice una cosa, l'altro funzionario di un altro ente locale te ne dice un'altra, quello dell'Agenzia delle Entrate te ne dice un'altra ancora, è un meccanismo assolutamente tipico per la produzione di qualsiasi documento. Le cose lentamente stanno migliorando, ma troppo lentamente. Fiorella dalla provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno. Io da un lato sono molto d'accordo che sono molto, diciamo, contenta, anche se cose di pagare le mie tasse per sopportare, diciamo, momenti di questo tipo, al di là che non debbano accadere, ma siccome in Italia ne accadono continuamente, questo dimostra che le tasse, e noi cittadini abbiamo bisogno che quando avvengono queste cose siamo lo Stato debba rispondere, e questo avviene attraverso i soldi che noi mettiamo lì. E quello che però aggiungevo era che in effetti la burocrazia è quella che è stata creata, c'è, cioè, ed è diciamo, ci crea un sacco di problemi, perché in effetti permette il tutto e il contrario di tutto. Questo è effettivamente vero, e si è visto anche nel sud cosa è successo, aziende che hanno aperto, chiuso, ecco. Però c'è anche il fatto di come sia possibile comunque, senza mettere, diciamo, continuamente interporre cose che non ci permettono di arrivare a avere i fondi, per controllare effettivamente chi ha diritto ad avere questi fondi, perché è vero che in Italia è stato dimostrato nel tempo, io non so adesso, e sono nella regione Emilia Romagna e penso che faranno il massimo possibile bene, che nei fondi che arrivano dopo problematiche di questo tipo arrivavano anche persone e gruppi di cui non avevano diritto. Per cui in un momento di questo, di grande crisi, di cose, questo da parte sempre, ma oltretutto in questo momento è opportuno un grande controllo, ma chiaramente sì, deve avvenire in una forma diversa, cioè deve essere permettere alle persone, alle aziende, le cose di arrivarci. Poi ovvio, il controllo ci deve essere. Ovvio, sì, ovvio che il controllo ci deve essere, bisogna vedere come lo fai questo controllo e con quale chiarezza di procedure, perché il problema rimane sempre quello. Sentiamo anche William che ci chiama dalla provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno, prima volta che intervengo. Ascolti, io ho una proprietà a Mulazzo, che sarebbe dove c'è il Telia, che c'è un affluente che va nel Magra. Anche lì abbiamo avuto tantissimi danni e che mi hanno detto che io sono privato e non ho una partita IVA, perciò tutto il danno che io ho avuto di terrapieni, di terra, di piante, non mi daranno mai niente perché non sono un agricoltore. Questo è quanto. Purtroppo ci sarebbe piaciuto, come l'ho detto, avere il presidente della Toscana Rossi per farlo commentare, anche per rispondere a domande come le sue, però insomma evidentemente non... Evidentemente c'è stato un problema, come ha sentito. Ci scrive Fabrizio Clementi su Twitter: nessun accertamento ex ante, ma solo ex post, con pene severissime per chi fa il furbo. Messori, questa potrebbe essere una soluzione, forse, in casi di emergenza come questi, no? Che dice? Scusi, non ho... Ci scrive un ascoltatore, dice: nessun accertamento ex ante, ma solo ex post, con pene severissime per chi fa il furbo. Quella potrebbe essere una via, no? Questa potrebbe essere la via, questa è la via per eccellenza in un paese normale, dove chi fa il furbo e specula su queste calamità va in galera. È quello che auspichiamo, credo che non si realizzerà mai in Italia. Ma così pessimista mi è su questa cosa? Guardi, la burocrazia ci uccide su tutti i versanti, non è solo nell'emergenza. L'emergenza non fa... Nell'emergenza si riflettono i modi di operare del paese, che ha bisogno in generale di un alleggerimento della burocrazia, di affidare agli operatori, ai cittadini, la loro responsabilità. Quando riusciremo a fare questo, avremo fatto il passo decisivo. Ancora con Giuseppe Rustici, presidente del Comitato Vita, in diretta da là, dalla manifestazione sulla via Aurelia, così poi la salutiamo e la lasciamo manifestare tranquillamente, insomma. Allora, a questo punto ci faccio un riassunto di quello che chiedete. Da quel che ho capito, più soldi e insomma snellimento delle procedure burocratiche. Sì, eccoci qua, Rustici. Ci riassuma quello che chiedete. Allora, cosa chiediamo? Chiediamo che ringraziamo di questa firma, ma le risorse economiche non sono sicuramente quindi sufficienti. Più soldi, quanti ne chiedete? Quanti soldi pensate che ci vogliano? Almeno 60 milioni. 60 milioni sono i danni stimati per le imprese extra agricole. Ok, questo per le imprese extra agricole. E per quelle agricole? Per quelle agricole ad oggi sul Fondo di Solidarietà Nazionale ci sono soltanto 3 milioni e 8, a fronte di danni per 42 milioni di euro. E quindi 3 milioni e 8, faccia lei la percentuale, è un'elemosina rispetto alla copertura del danno. Chiarissimo, questo è quello che chiedete, più fondi e naturalmente fondi. E c'è l'altro aspetto, quello forse più importante, la messa in sicurezza del territorio. Ecco. Senza la messa in sicurezza del territorio non possiamo ricostruire le nostre aziende, le nostre abitazioni. Inutile avere i soldi, tra virgolette, per ripartire e poi di nuovo l'alluvione, di nuovo l'acqua nelle nostre case. E poi defiscalizzazione degli oneri contributivi, almeno quello che ci consente una certa liquidità per tutti noi. Grazie Giuseppe Rustici, la lascio alla sua manifestazione. Dov'è? Su un trattore lei? Adesso sì, siamo nel cortile, stiamo arrivando a Conservitalia e da qui partiamo a piedi, ci sono i bambini, ci sono tante persone, nemmeno l'acqua ci ha fermato. E piove tra l'altro, per giunta. Adesso piove, sì, ma i maremmani non si sono fermati nemmeno con l'acqua. Bene. Allora, buona marcia e buon corteo, Rustici, in bocca al lupo per tutto quanto. 9 in punto. Dario ci chiama dalla provincia di Pesaro Urbino, buongiorno. Sì, grazie. Buongiorno. Dunque, niente, io volevo esporre il mio caso, che è un caso che va avanti da, diciamo, dal 2011, dal 2 o 3 marzo 2011, quando mi sono ritrovato nel laboratorio quasi 70 centimetri d'acqua che mi ha, diciamo, rovinato tutto, ci ha mandato tutto per aria, tutti i lavori, tutta la roba che stavo preparando per le fiere, dove subito un danno notevole. E ancora, a distanza di 2 anni, ancora c'ho l'acqua che mi arriva, che mi batte nel muro posteriore del capannone, di essere in una risaia a Venezia, non so, e sono sempre minacciato costantemente, perché quando piove, siccome sia la provincia che i responsabili dei corsi fluviali, fiumi e fossi via, non hanno sistemato niente, perché questa era una cosa preannunciata, perché già erano molti anni, 10-15 anni che io andavo giù qui nella provincia, che sono loro che dovrebbero, cioè, diciamo, i manutentori, no, di questi corsi d'acqua e via, dovevano sistemare, quindi non è una cosa, cioè, e mi hanno liquidato adesso qualche mese fa con una risposta, una lettera dove dicevano che non era di loro responsabilità. Dico, e di chi è la responsabilità? Dopo era stato appurato tutto, che sono loro che devono intervenire. Io, guardi, cioè, mi sono rivolto a voi, siccome sentivo la trasmissione, sentivo molte lamentele, sono uno dei tanti che praticamente un artigiano, un piccolo artigiano, perché c'ho il laboratorio qui dove faccio i tagli, i prototipi, via. Chiaro, che mi hanno chiaro, messo, capito. Anche là comunque abbiamo capito, Dario, una sorta di impastoiamento burocratico. Mentre invece, Messori, io le voglio leggere una mail che ci è appena arrivata da un ascoltatore, Marco, che dice: insomma, tutti i fabbricati produttivi che sono all'interno del cratere, che è la parte più colpita naturalmente del terremoto, devono secondo legge mettersi a norma. Però tutti i fabbricati che non hanno avuto danni, e sono molti, tenete conto che quelli presenti ai margini dell'epicentro non hanno alcun danno, devono comunque mettersi a norma, ma sono stati tutti esclusi dai finanziamenti. Ci racconta questa vicenda, è stato fatto un altro bando. È molto complicata e la conosciamo bene. Sta per uscire, sta per essere ufficializzata una mappa sismica, anzi è già uscita, in proprio questione di ore, in base alla quale chi, diciamo così, voglio che capiscano tutti, ha subito il terremoto in modo più violento, senza avere danni, è sostanzialmente già stato testato dal terremoto stesso e quindi non dovrà fare nulla. Viceversa, sempre nel cratere, chi ha avuto danni e si è allontanato dall'epicentro e ha avuto sotto il proprio capannone una scossa meno violenta, la percentuale, il 70% della spinta, adesso non le sto a entrare nel merito, avrà qualche anno per adeguare il proprio capannone e portarlo al 60% di resistenza sismica sulla base della nuova legge. È vero che al momento per questa operazione non esistono fondi disponibili, noi stiamo premendo, lavorando come sistema Confindustria perché questi fondi si trovino nel prossimo futuro, mentre sono stati stanziati da un cosiddetto bando INAIL, utilizzando dei fondi che erano previsti per altre cose, le prime messe in sicurezza dei capannoni, la legatura dei plinti, eccetera, eccetera, che fu fatto nelle prime ore, nei primi giorni, nelle prime settimane immediatamente dopo il terremoto. Ma anche qui i soldi ci sono, ma anche qui purtroppo sono ancora tutti sulla carta, perché i tempi di questa burocrazia, che più si entra nei singoli casi, più pretende di regolare tutto, danneggia la velocità. Veda, qui io insisto, non siamo in un periodo normale Se questa cosa fosse avvenuta nel 2001, 2002, 2003, forse il tempo sarebbe stato meno essenziale. Ma qui stiamo attraversando una crisi epocale, qui tutti i giorni, anche in queste province molto manifatturiere, no? Chiudiamo aziende, certo. Aumenta la cassa integrazione, cioè è come se a un malato grave non venisse dato l'antibiotico necessario per passare la nottata. Abbiamo raggiunto, così per gli ultimi 3-4 minuti, torniamo sulla Toscana, Gianni Salvadori, che è assessore all'agricoltura della regione. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Si diceva e si sentiva le preoccupazioni degli agricoltori sono innanzitutto i pochi soldi, poi la persona che ha appena sentito parlare adesso è Giovanni Messori, che è direttore di Confindustria Modena, la questione delle pastoie burocratiche, perché i soldi sono stati stanziati e adesso si tratta di distribuirli, insomma, no? No, io intanto voglio sottolineare sulla Toscana dei soldi per l'agricoltura non c'è nemmeno un euro, gli unici euro sono 6 milioni che abbiamo tirato fuori dal bilancio della regione, che il cui percorso si concluderà per l'inizio dell'assegnazione entro Pasqua, ma sono solo soldi della regione. Noi chiediamo soldi anche per l'agricoltura allo Stato. Quanto credete che sia necessario? Per noi sarebbero sufficienti una cinquantina di milioni per la Toscana, ma come dire, senza considerare i danni che, come tutti gli ascoltatori sanno, in agricoltura non si verificano come in un'industria manifatturiera, durano un paio d'anni. Noi lì abbiamo zone, soprattutto nella Grossetano, che per 2 anni non potranno seminare, quindi i problemi sono giganteschi, insomma. Dico 50 milioni per ripristinare le attività, senza considerare quell'aspetto che ora dicevo. E poi il rischio lentezza, no? Che è quello del quale stiamo parlando anche in questa trasmissione. Noi come Toscana abbiamo dei dati interessanti su questo, molto importanti. Noi abbiamo stanziato 100 milioni 3 mesi e mezzo fa e stiamo realizzando 263 interventi, di cui 71 già finiti e 179 in corso. Quindi, come dire, abbiamo sicuramente pastoie da affrontare, ma come dimostrano questi dati li abbiamo affrontati, perché in tre mesi e mezzo abbiamo fatto tutti questi 52 milioni messi in opera sostanzialmente. E i danni complessivamente a quanto ammontano per il settore che la compete, naturalmente, per quello agricolo? Non sono definibili, nel senso che noi abbiamo, per poter ottenere dal Ministero lo stato di calamità e quindi più che di calamità, di eccezionale avversità atmosferica, abbiamo presentato circa 45 milioni di richieste di danni, ma come dicevo non consideriamo quello che avverrà, cioè noi ad oggi non siamo laggiù, non sono in grado di seminare, questa cosa produrrà danni per un paio di anni ancora, quindi 2013 e 2014, e quant'è? Non glielo so quantificare. Cosa succede sul settore oltre il cerealicolo, penso al pomodoro, non glielo so dire, cioè è tutta roba che vediamo dopo, quindi non è definibile oggi l'ammontare dei danni, sicuramente molto ingenti. Noi siamo quasi in chiusura, ringrazio Gianni Salvadori, assessore all'agricoltura della regione Toscana, per essere stato con noi, la nostra Laura Bettini in diretta dalla manifestazione che si sta svolgendo sull'Aurelia, Giovanni Messori, direttore generale di Confindustria Modena. Non mi resta che ricordarvi che cosa succederà oggi all'alluvione in Toscana. Abbiamo deciso di dedicare questa giornata, in questa giornata di mobilitazione, e il Radio Day di Radio 24, appunto dedicato proprio a questo, tra le altre cose questa sera, al posto della replica di 9 in punto, dalle 21 alle 22 andrà in onda uno speciale dal comune di Orbetello, nel quale faremo il punto su insomma questo ennesimo caso di problemi con i fondi e di insomma disastro naturale. Non mi resta che ringraziarvi, ringraziare Paolo Corleoni in regia, Franco Piantanida in assistenza, Alessandro Marcotulli in redazione. Un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Ricordati,